Oh, signor Giomarini. Hola. Ehi, caspita, buonasera. Buonasera, buonasera, sembra bella la serata, anche la giornata oggi era bella, vero? Senza che non si imbrutta, Dorra. Senza che non si imbrutta. Ehi, non la si imbrutta, la bobbiamo la coppa e la burimo. Andiamo, andiamo, bubu. E allora, dove va? Dai brutte due burimo, cazzo, e andiamo ad andare sempre. Oh no, e beh, c'è la bacchigia, non si è sentito. Ancora no, non l'ha poi inteso. E davvero, ma entra però. No, la gara che mi ha abbassato fuori la cura. Ah, secondo me non è Edo, non è Luca. No, finiamola per buono dopo, se non è lui, che cosa si vuoi fare? La finiamo per buona noi. La finiamo per buona. Così, evidentemente una gana, non ti tirare la gana, è dei canali, ma non lo so, grazie, rubando la tua ginnanda. Ah, se me lo fa, oh, alza che ho provato a accendere la ciuffa, sembra funzionando bene, da quando l'ho pulita non l'avevo toccata ancora, poi ho provato a accendere, già mi sembra che sta funzionando perfettamente. E cosa devo comprare io? L'aspiratore per i fumi, devo comprare. Ah, che ci faccio, funziona però, me ne manda tutta la polvere fuori. Io la pulisco, io una volta alla settimana scendo in magazzino, voto tutto, cioè c'è l'aspirapolvere e pulisco bene tutto il motore e dopo la porto su ogni settimana e ce l'ho già se ho 7 anni e sta funzionando sempre perfettamente. No, anch'io il coso, l'aspirapolvere che ho, mi butta la polvere fuori, mi butta. Ma tu devi comprare quella che rimane dentro il bidone, io ce l'ho così, io da quando ho comprato la ciuffa mi sono, anche me l'hanno regalata l'aspirapolvere, proprio per la ciuffa, dalla Bricomen, e ancora mi sta funzionando bene, sempre perfettamente, però l'aspirapolvere è sempre pulita, perché se no si intasa le spazzole, e da voi chi si intasa e non funziona più. Ah, ti direi a rovinare lo viewer. Un passo allo spazio, la grafia giottacante è fino a chi non si consuma. Per cui è sempre funzione di me. No, anch'io ogni settimana la pulisco. Anzi, veramente la burendo ogni anno a burendo. Ha giubilato e la foto, devo comprare l'aspirapolvere, me devo comprare, la pulisco così, me la pulisco. Ci vuole l'aspiratore, ci vuole, io la ciuffa me la pulisco un giorno sì e un giorno no, capito? Per cui la ciuffa mi è sempre pulita, è pulita e dopo ogni settimana pulisco anche l'aspirapolvere. Con l'aria lo faccio pulita e funziona sempre. Infatti, no, ma quello che mi hanno regalato a me, sì, ci deve essere il coso che c'è, ci deve essere tutto quanto malandato, e mi butta la polvere fuori, mi butta, infatti non si fa nulla di rilassi, e compro quello di Bricomen che c'ha il coso dentro, c'ha il filtro dentro, c'ha. Beh, che aspira polvere, cazzo, questa che aspira, allora magari è qualche aspira polvere per la macchina, quando pulisce la macchina, solo c'era l'aspiratore che c'ha il tubetto e la butta fuori, che non sia una aspira polvere così, la via mette tutto dentro, fuori non ne buttano. Ma ti dicono se vanno da non si dice, io uso l'altra aspirapolvere che uso io, e Cristo, che è più buono. Ma chiama durante una settimana me lo compro. L'avevo comprato una per campagna, infatti anche in campagna ce l'ho. Ogni estate impulisco la macchina e ce l'ho sempre giù in campagna. Anche quella c'ho un saccaccio d'anni, una ventina d'anni ce l'ho. Anche quella la pulisco con il compressore, capito? Ogni tanto, e per cui devono funzionare bene, perché se uno non la pulisce, lì dove passano le spazzole la graffiano la polvere, capito, quando gira, prima o poi ti spaccia e non funzionano più. Infatti questo così migliorare prima cosa, me la aspiro ogni giorno. Ah, cosa la poco tu oggi all'abrico, mi sembra che ci sono all'abrico, non ci ho badato, male ci ho visto, quindi ero la gattaccia proprio per la stufa, per cui il prezzo però non l'ho visto, servono, per cui dato che c'è la stufa tu pure a pellet, serve una polvere così, capito? E quando la fine deve rimanere dentro il bidoncino, poi quando vuoi piglia lo scarichi e la pulisci. Infatti uso così, lo uso la mano così, è pulita e quando la girate in lì funziona la mano, già funziona così, ma no, l'ho aspirata a volo, non l'ho aspirata l'ultima volta. E dai, cazzo. Cazzo, una tosse, ragazzi, fa male la gola, cazzo. E ogni tanto qualche colpettino di tosse ti rimane, Cazzo, ma beccato in pieno avanti, sotto il portone, che c'è la corrente fredda, e mi ha beccato in pieno tu. Perché con la corrente bisogna stare attenti, dici buoni. E poi specialmente all'età nostra, cazzo. Subito, sì, magari senta, ma entra subito, Infatti, tanto bisogna rimanere un po' garito, riservati. Certa volta magari più riservato sai, ma nemmeno te la accorgi e ti becca, ecco, faccio vedere. Che pure in campagna, certe volte magari stai facendo qualche cosa, sudi, c'è quella rietta e ti becca, vedi un po'. Ha detto mi sembra diretta all'unizio, mia moglie mi ha detto tu, almeno dice lì non passa aria, sei tranquillo. Ma così è troppo. Dice la giustizia, mi sembra diretta all'unizio, perché c'è sempre fermo dritto, è meglio pure. Ma facciamo bene gli incidenti, non è farà durare pure il nato, non è farà durare, è trotto la macchina. Ma che per carità, attento signor Macchisio, mai un colpo, una gara di tronco, piazza sopra oggi. In Cervinia, un metro e mezzo di neve a me. Chissà cosa sta fatto oggi, dove sei tracco, ancora intendisci, attento signor Macchisio. Va a entrare, stiamo posteggiando la macchina, se no se ne è già alzato. Cosa hai combinato oggi sto? Nulla. Mamma mia, io sono uscito stamattina, ho sceso giù, che c'era una bella giornata, mi sono fatto una bella passeggiata dietro il cortile lì, andando e tornando, un'oretta, fino alle 11, dalle 11 non sono uscito più, c'avevo ospiti in casa oggi, si sono andate poco fa, e per cui ero tutto, quasi tutto il giorno, in più la lira. Vabbè, io invece ho riuscito a grugare, fanno una passeggiata, che mangiamo a un giorno, ha già regato un poco, poi sono rientrato e sono diventato a mangiare, e poi mi sono fatto il bisolino. che quello bisogna fare, è un dovere quello lì. Bisogna portarlo a fare una passeggiatina, li fa bene anche a lui, per cui fa bene a te, fa bene a lui, e dice che anche quello ci vuole. Una volta che ce l'hai bisogna tenerselo conto uno. Infatti, bisogna fare così, bisogna farmi a Dante. Com'è, sta funzionando questo birichino? Ah, sta funzionando bene, sta facendo bene, radio perfetta, radio 5 perfetta, proprio, segnale buono. Bello questi, da. A che ogni tanto andate duro, Anche se noi da ragione, se lo fate di finifea, per cui sembra tutto tranquillo, stazionare un sacchetto. Sembra tutto a posto allora, meglio così. È chiara la voce proprio, voce tua, sembra la voce tua normale proprio, sarà chiara. È la voce di Gio Maria e non cambia mai, sempre la stessa. Ma è chiara chiara proprio, tranquilla. Meglio così, to. Vuol dire sta andando tutta la gonfia pelle. È tutto fa brodo, vediamo un po' c'è un bacchisio quando entra, se oggi lo sentiamo bene. No, mamma, mi senti bene, ce l'avrà appoggiato più bene oggi. Lei era a posto ieri, ma oggi ce l'ha più bene. Vediamo un po' se oggi lo sentiamo bene. Ieri sera prima di chiudere stavo uscendo bene, prima no, ma dopo stavo uscendo bene, per cui la radio era perfetta, va. Sarà così, speriamo che entri. Senz'altro. Non penso che stia festeggiando la giornata dei risalti. Sì, non vedo a festeggiare. Pagare è festa. Pagare la pace, che si lavora. No, oggi è festa, chi lavora oggi? Oggi non ha lavorato nessuno, lo so. Ma magari è facoltativa, non è che, però è una giornata festiva oggi, Penso che abbiamo lavorato solo i supermercati e basta, I supermercati anche l'uno avrà travagliato oggi, fiorai. Quando è facoltativa, sai com'è? Se è quello che l'interessa, se è quello che la festa se la gode e così via, capito? Che domani sono i morti, per cui non si festeggiano più molti, però una volta si festeggiava i santi e i morti e non si lavorava, invece oggi il giorno dei morti si lavora. Io ho sempre lavorato il giorno dei morti, quindi sono già 3 anni che sono festeggiandoli. Per un ragazzo io sono i morti era festivo, capito? Morti e i santi erano festivi e non si lavorava. Adesso che ne stanno buttando fuori tutte le feste, gira da Magliambura a domenica, tutta la vita, puoi immaginare, non sai cosa fa. Io c'avevo, quando stavo lavorando, la domenica libera e i giorni di festa c'avevo libero. Ma le feste devono essere feste per tutti, no a chi ne gana, a chi non ne gana, cioè festa è festa per tutti, non per un'azienda solo. Nella ditta davvero io non lavoravo né la domenica né i giorni di festa, penso un poco, da un 4 anni stavo la domenica non lavoravo. Ma io mi ricordo da piccolo, cazzo, si lavorava fino al sabato, la domenica non si lavorava per niente, nemmeno i supermercati lavoravano, dovevo girare, e i giorni dei morti era festa lo stesso, santi e i morti, tutti i 2 giorni festa, in gioventù mia, io parlo in gioventù mia, mentre adesso invece tu osserva, c'è solo il patrono di Sassari festa, ma è anche il giorno del patrono di Sassari, anche lì c'è la facoltativa. Infatti, E infatti è così, chissà, boh. Anch'io allora facevo festa, lavoravo fino al sabato e boh. Quei giorni di festa era chiuso, quando sono entrato a lavorare, i giorni di festa era chiuso, quindi non travagliavo, aveva festeggiato. Il commercio deve funzionare, ma cazzo, non c'è tutta la settimana, cazzo. Perché non fai fare anche festeggiare anche a loro che stanno tutta la settimana lavorando? Permetti che la domenica invece lavora a mezzogiorno non devono lavorare nulla, passa tutta la settimana e la domenica devono riposarsi, invece no, mi giocavo nel bocco di legge, cazzo, per carità. Fa guadagnare, ecco, lo sai, grande supermercato hanno rovinato tutto, hanno rovinato. Ha guadagnato, ma intanto la riguadagnavo, guadagni lo stesso anche dentro la settimana, sai che domenica così non si lavora, te la fai prima la spesa e siamo sempre lì, però almeno il dipendente la domenica anche loro hanno diritto di fare i cavoli loro, di uscire, di non uscire, capito? Però a cazzo male fatemi, io prima gennata fate la legge, capito? Quando era Berlusconi hanno cominciato a aprire i supermercati grossi, ma allora per carità, gatto, ma lui so io cazzo, tanto anche la mano a travagliare la domenica mazzana, aiuto, cazzo, anche se fai i turni, cazzo, vabbè, cazzo, fai i turni, però non è anche giusto, tanca la domenica, tanca, boh, la domenica no, o magari fai lavorare in un mese, una domenica, boh, ecco, e già tutti devono essere quel che vanno, almeno uno può fare il capo, fare il piace la domenica, cazzo. Purtroppo, fanno in mano sempre ai delinquenti, io abbiamo fatto giarra la domenica. È difesa, basta lavorare così, già sono mal pagati, figuriamoci che hanno bisogno di lavorare pure la domenica. Ma rispetto, io dico che se uno ha di comprare cosa ha del prezzo chilla, non la domenica, se ne può andare fuori a passeggiare, a fare il viaggio, non che devi lavorare uno. Pesa, te la fai, cazzo, tre tui chita, boh, o un sabato, cazzo, la domenica la sera liberi per chi uno c'ha di 80 anni la mano a travagliare, cazzo, e si deve riposare, non a travagliare la domenica a mazzare un muro, ma io, tutto a me, interesse, boh. Sì, se vuoi parare, cazzo, perché ci ha fatto la legge così. Chi sarà dello signor Berlusconi? Un grande impresario. Noi Berlusconi. Noi Berlusconi. Da fine sono magnati a vero, tutto a me, tra che Berlusconi è. Vieni sono peggio di Berlusconi. Infatti. Purtroppo è così, Giulia, andare. Attenzione signor Bacchisio, non entrano. Sono già le 7:30, cazzo, non deve entrare a casa all'otto quando è già da fini, no? Evidentemente, sono una gara, ho si è acciappato con un cazzo, un chiacchierone, e sono ammazzato di rura. Non sono le 7:30, sono le 6:30. Le 6:30 sono. Andiamo a entrare. Se non con capo fa gente in casa, boh. Non credo che sia in campagna ancora, lo bugiono. Vai, bugio. Cazzo. Può darsi che ci abbia anche gente a casa, è soltanto inapparato, però con l'apparecchio in mano a Brenda e Tancelli. Ah, boh, cosa ne so, boh. No, non penso che sia tocca di nulla, va. Avrà qualcuno a casa. Può essere, paio di mesi me ne sono andato a Zura, se ne sono andati, e sai come tra la chiacchiera all'altra, certo, avevo finito qui l'anno 4 e più mi immaginavo, avevo finito, puoi immaginare, da voi c'era la mezzente, si è passato l'ora, ma ha capisato, mi dicevo, oggi si è passata lì, si è passata lì. Fatto una bella giornata, però Rinuccia ha fatto Eva, ogni mattina aveva ragazzi. Si vedeva nel mi arriva la sera quando ho già ricattato, io su, verso le 10 meno un quarto, fatta si vedeva ogni fulmine che era segni, allora se che ha fatto intorno all'una, alle due di notte, io mi ha capisato, me ne gioco. Ha dato una bella scaricata verso le 11 e mezzo, mezzanotte. A quell'ora stava piovendo a dirotto, e per cui mi ha iniziato a presso, perché rientra a mia nipote, dice sta piovendo, cazzo, ed eravamo rosinetti, però verso le 11:30 sentivo, e mi sono bloccato un misto, perché non mi sento andato bene, però la gittesa, ciò che lo stavo piano in tempo quando faceva, capito? Infatti si sente, no, ma anche io non l'ho sentita, ma mi sono buffato che era in onda, sì. Siamo io troppo il tracco e quando l'ho fatta via a Sarra, mi sono subito lì, a dormi subito. Tu non intendi perché non sei sotto tetto, invece io sono sotto terrazzo e per cui quando piove lo sento, cazzo come c'è? Cazzo, e quando per vento il tirante dell'antenna mi proprio rimane sotto la cameretta dove dormo io, mi fa dei fischi enormi, fa, capito? Però mai sono abituato, non mi disturba da là. Ciò fa, sembra di quei venti che fanno sentire nei film, in Cina magari, così, il vento così ti fa quando c'è vento forte. Ah, boh, io non intendo nulla. talmente che ante ritracco mi sono dormito subito, quindi una volta che mi sono dormito la gente si nulla. Ti sei sotto e per cui è diversa la questione, invece io sto sotto tetto e già li sento, perché da me non ce ne sono tevole, lo sai che è terrazzo, per cui quando scende il goccio, la goccia d'acqua si sente, grazie, come? Però l'importante è che non ci piove dentro, quella è la cosa più importante. Per adesso può fare l'acqua quanto vuole, non mi disturba, vabbè, polvere la televisione accesa, tante volte dico a Lino, ma anche se sono dormito, a me non mi disturba, accendi la televisione, puoi stare tutta la volta la televisione accesa, non mi disturba, i rumori non mi disturba a me, magari a lei la disturba, a me no. Cioè, ti puoi immaginare, io guardo dormo, non senta nessuno, meglio così. Ah, ma siccome io ho il sonno leggero, però molte volte nella franchezza non intendo nulla, non intendo. Quindi, minuti proprio, non ha gente giunta. Questi hanno fatto i forti. Se magari sarei la Serena non la sento. Però se è forte, come la sento? Cazzo, lo grida. Senti il vento, basta entrare in bagno, senti il rumore del vento, le corde come fischiano, perché proprio rimane la fumaiola dove c'è lo scarico dell'aria del bagno, così che lì si sente tutto, capito? Quelle corde che fischiano sono questa che hai messo e anda hai detto che chiamiamo signor Battisio, ci sei, non da davano entra più tardi a vedere che entra, ma almeno vinci e dopo sentiamo la forzante col bipi e quello è lui andate. non vuole entri. Va benissimo. Marco Graziano oggi, beh. Graziano oggi. Se ma sei gitta, l'agroturismo, mangiate i bevendi. A chi giorno di festa se ne va a mangiare fuori lui. Con tutta la truppa. E dopo ti manda i messaggi e le foto come lui sta mangiando e bevendo e divertendosi. Cazzo, la via una la sta lì, mi manda la foto. Cazzo, con la camicia a petto nudo, con la camicia a triolè di là, qui là. Ma Graziano è pacciuto me. Ehi, continua così, se ci affermo a Edoburo andando a portare i fiori. Ma io per la giudizio, mica non avevo di rame, ma con Gagarazzo è cresciuto ancora. Continua così, peggio Baedo. Ha detto che non aveva ben saggito Edo, domani è bise e se la futti, così ha detto. Capito, cosa ne vuoi fare? Anche quello è giusto. Finché c'è vita c'è sempre speranza, per cui bisogna che la approfitti uno. A chi? Oggi specialmente, domani ci vi pensa. Non vi pensa, se tenga sempre così con una cosa per darsa. Tanto mi ha dato, si ricompia Gianni Ribelli, ha detto. Chi è? Avanti, chi è che vuole entrare? Ma chi tu sei? La porta è aperta, Otto, mi aspetta che vada bene, c'è la colazione. Ah, ma so che non chi. Allo, messie, che sta preo, ui? Così è. Beh, ma chi siete dello servizio, ui? No, ancora no. Signor Bacchisio! Niente da fare. Avvi, niente da fare. Luca, non si è sentito, anche lui deve essere indaffarato. Cazzo, mi è giunto un drone, il vostro braccio. No, ma non mi fa sentire. Cos'è? Mi è giunto un drone, il vostro braccio. Ah, Cazzo. Allora, mi ha imbrugliato una bustina di mezzurì. Raggio Zerato, all'inizio era coccato, ho pigliato il freddo, era brivido di freddo, mi sono molto freddo, ancora era sopra il ciume, all'ultimo ho fatto bollire la coperta sopra, a chi era un freddo, così che ha detto una freccia, mi stavo di burro, si era già freddo. Siamo già di guardia a me sappo. Che ci ha detto il burro. Allora si mi ha attaccato un freddo, mi va a brividire il massimo. Sono già mal leggerito, mi è passato il burro un poco il volo del braccio, il gondo. Tutta la bala mi fa di male il braccio. Cioè, ma secondo la posizione che figlio me. Ma già si fa di bene i celli. E poi io la notte mi pongo la mano sotto al capo così, no? E quando c'hai da voi di mezz'ora ti fate male tutto anche l'iPada e il gondo. Sì, siamo così. Andare anda, mondo. Ciao, c'è la dottoressa. E dice, faccio fare impegnativo, va all'ortopedico, e andare all'ortopedico, capito? Mi dice di non fare il filtrazione, se le faccio le otto, buongiorno, me ne sono andato. L'iniezione da ordinando. E allora, infiltrazione vorrei fare, non saranno. Ha detto no, se faccio lei io me le faccio quelle cose. Sì, ma sopporta il dolore, vuol dire che sopporterà il dolore, ma l'acqua e la dimo, da minore, ma chi appena finita la guerra, ma me la riprende sempre l'iniezione, ma ha truccato l'acqua, 30, no, mi sarei truccato. E cazzo, si mi è gonfiata la latica, cazzo, non si è abbiata questa ira, cazzo, è saccato, e l'ho messo l'acqua, un trenzo, e mi hanno fatto un taglio, ma saccato non finiva più, e dalla voce udimo l'acqua della, cazzo, vengo l'acqua e mi si gira la faccia, l'acqua è feo, ma che non si affronta, aveva tenuta, ma dimmi, oh Giulia. Ma dimmi, mi pare lo freddo a me che mi vengo l'acqua, capito tutto? Cioè anche quando faccio andare a fare l'analisi, no? Cazzo, che poi mi sa con minorità, è puro, puro chissà dimmi, però mi si gira la faccia, sta croci e stringo le denti, ma che la dimmi? Ragazzi, mi lago, è una cosa fea. Oia, meglio non vedermi. E allora, la bozza che mi ha droccato la cosa dentro, mi ha fatto un taglio, non finire più, faccia a famiglia, capito? Già lo sai che la punta dell'acqua cammina, e per cui, meno male, ma faccio un bel percorso, ma l'ho fatto un taglio, mi pare che era preso 12 centimetri, puoi immaginare, e ancora faccio la cicatrice, ma che non voleva più guarire. Ma la succede, il coso te lo fanno tagliare, è difficile a guarire. Questo che vuole che fa forse più di un anno a sanata, ma che non ha abito un taglietto a darito. Lo che senti io, cazzo, mi pare la prima quando vengo l'acqua, ecco, quando c'è in menzione io, mamma mia. Timbo, timbo, mi ne faccio quando ho avuto l'incidente dell'albero, mi ne faccio in menzione me. Però, cazzo, non ti dico niente. Guarda, ho fatto troppo, per cui il dolore va via la peggio dell'acqua, per cui riesci a mantenerla. Però oggi così vado a fare analisi, guarda, e la Timo, Timo, mi si gira la faccia e scrivo i denti. Fatto così. Bisogna stare lontani dal lago, un po' di busto, meglio non aver nulla. Andare là, mi sono fatto che danni, mi viene da freddo pure a me. Attenzione, signor Marchisio! Risponde, no, è impegnato, sta festeggiando con degli amici, vuol dire che è impegnato, per cui oggi l'apparecchio, no, la sella, ehi, vabbè, a chi sta ancora, sta fresco ancora, per cui può darsi pure entrare anche più tardi. Andare là. Se vuoi entrare, entra, se no pazienza. Già venne le giornate. No, se mi occhio, io mi abbezza. Uno quando vuoi entrare, io mi abbezza, no, è stancato, è abbezza. È tutta spalancata. Una bassa e l'altra. Se vuoi entrare, se mi occhio, tranquillo e pacifico. Sì. No, diremo tu da nessuno, per cui siamo tranquilli tutti. Infatti, adesso è meno di noi, ci temo, tanto non capisce che nessuno. Ah, via. Così è, Luca, è peggio. Il bello, cazzo, ci sono le fave demo, chi sa e cosa, però non entra. Boh, chi ci ha fatto prova le socio. Sì, mi pare che non ha già parecchio. A che do, ti piace la roba matura, mi udo già là. Però non le piace lo minuto, capito? Oggi via, che andiamo voi, andiamo. Ehi, vabbè. Se vuoi entrare, vai a andare alla bista. Aspetta, vuoi attaccare il baccolone. Me la prendi, mira, che ha già lasciato il baccolone a un'altra mezza bista. E vedi, la stessa, la stufa, e lo bacco la bista. Così non è quasi nulla. Questo di chi? L'ha già fatto, ma fa circolare un po' caldo e da me prendi. Avanti. Buonasera a tutti, doppio room, ciao Tore, ciao Giomaria, non so se ci sia qualche donato perché è acceso adesso là. Siamo io e Giomaria, buonasera Gianni, siamo io e Giomaria, in due, adesso siamo in tre. Come mai, con chi di stasera? Grazie Graziano, se mi inteso. Ah, Graziano ce l'hai fritto nel Castellugo. A festeggiare armi. Boh, non si sa. Se non è il Castellugo, ma niente. Se ne do rattanuti. Boh. Non saprei. C'è il suo fraiuto, gli arrembiati di che si cose, eh. Ci si muove ancora di più. Se ci vai tu. No, fatti bene. Tanto la vita è una, se non te la godi, poi. Cosa vuoi fare? Siamo così. Noi siamo rimasti là o che siamo in treno, siamo va vedere. Andate. Un pochettino ci va benissimo. Signor Giomarini, si è allontanato. Anda bene, riprendere prima. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Buonasera anche a lei. Ben entrato. Allora siamo in quattro. Più ce n'è meglio è. Meglio così, meglio così. Anda bene. Aspetta per essere entrato Giomaria. Giomaria. Conosciuto, dai, un attimino che è venuta gente. Già rientro subito. Ciao già comunque, ciao anche a Gianfranco. Rientro dopo. Giomaria, vai tranquillo. E allora Gianfranco, era un po' di tempo che non ti sentivo. Che fine avevi fatto? Sì, ciao Giomaria, buona serata. Ciao anche a tutti gli altri. Ma mi sta venendo troppo raffreddore. C'ho il naso un po' chiuso. Il fatto che ero molto impegnato con le uscite, quindi sono uscito anche stamane, infatti, e sono un po' stanco. Oggi mi ha anche fregato, mi sono addormentato dopo tanto e sono svegliato alle 5, va bene, in realtà sono le 4, questo orario è odioso, guarda, una cosa non lo posso sopportare. Comunque, vabbè, aspettiamo marzo. Allora, tutto bene? Avanti! Va, ohia! Però quanto sono rincoglionato, sono dimenticato il... non Gianni, l'altro... il nome! Vabbè, avanti comunque! Torre Squadra! Eia! Oioioi! Se cominci da adesso a dimenticartene, andiamo bene! Vabbè dai, quindi, al prossimo anno non si cambierà più l'ora legale. L'ha detto l'anno in televisione, se andremo da marzo cambieremo e non si cambierà più. Ma infatti tutte cose che fa l'uomo in base ai consumi e a tutto che lo fa, se no per natura dovrebbe restare sempre così. Sì. Comunque per domani ha messo pioggia, lo sta dicendo. È sabato temporale. Andiamo bene, andiamo. E allora ha fatto bene oggi a andare al cimitero, anche perché non ha trovato moltissima gente. E se no poi domani non fa, è pieno di gente, poi piove, si infanga tutto, è brutto. Invece oggi sono andato, c'è una bella giornata di sole, ho messo i fiorecchi di domometri e via. Ah, io il mio dovere l'ho fatto di mano. Ieri già ce n'era la gente, però l'avevo fatto ieri con il sole lo stesso. È andato tutto bene. Va benissimo, dai. Vabbè. Lo so, perché tanto poi il giorno dei morti ce l'ha a calco, vanno tutti quel giorno lì. Bisogna andare un po' di giorni prima, di modo che anche le bare sono tutte a posto, quando la gente passa vede i fiori e tutto quanto. Invece se ci va il giorno dei morti, se mi gente il giorno dei morti per andare a portare i fiori. Infatti, ed è così, tutti si aspettano dopo. Vabbè. È così. Vabbè, dai. Ho trovato il parcheggio subito da me, tanto la giubbotta. Trovato il parcheggio, come c'è andato, c'è il parcheggio libero, una fortuna sfacciata. Io l'ho trovato di fronte a Eurospinger per l'autorese. Ma c'è un po' che anch'io che è entrato. Ma ho fatto il mio dovere. E quindi c'è Cappuccio. E io sono andato dalla parte della strada di Alghero, dai, da lì, perché mamma è lì vicino. sono andato da lì, quindi mi conveniva quella parte lì, solo che è sempre pieno di macchine, addirittura fuori da Delta però hanno messo il divieto di sosta di fermata, quindi c'era la macchina dei vigili urbani pronta a fare la multa. Vabbè, così faccio. Ma Franco, tu? No, io non ci sono ancora andato, preferisco andarci un altro giorno, intanto prima o poi ci dobbiamo andare tutti, quindi insomma meglio aspettare un pochino. Sì, purtroppo domani siamo punti a capo, sto guardando temporale dall'una, però anche dalle 7 iniziava la pioggerellina, quindi niente, meno male sono uscito oggi. Sì, non è tanto, oggi c'era un caldo, guarda, non ho visto altro che gente spogliandosi in strada, mettendosi maniche corte, allucinante veramente, col rischio di prenderti un accidente sempre. Ah, io gli ho messo una manettina di quella leggera a maniche lunghe, boh, stavo benissimo così. Lo so, ma noi passiamo in una zona da caldo a freddo, quando passi nelle pinette, no? Poi esci di nuovo sull'asfalto, poi ci sono gli alberi, cioè all'ombra c'è il gelo, poi al caldo su di è un macello, ero tutto bagnato. Oh, yeah. Lo so, quando è così, sì, all'ombra non si sta bene, però al sole va bene. Poi ci siamo fermati al fioraio perché ho trovato mia sorella, stavamo parlando, e si stavano scaldando i pantaloni a ciclini, scaldando proprio. È brutto, un tempo strano, molto strano. Adesso vediamo, sto guardando sabato, com'è la situazione. Riprendi Tore, tu non sei uscito, no, intanato? No, io sono uscito stamattina, poi anche stasera a portare il cane, ho fatto un giro grande. Sono uscito stamattina, quindi già mi basta. Ah, io ogni giorno esco mattina e sera, il cane lo devi portare sempre. Alle 8 adesso lo porto, e poi fino a domani mattina è a posto lui. Sì, vabbè, vuole portato, poveraccio, io lo porto anche 3-4 volte al giorno. No, comunque, sabato si può uscire, ci sono solo nubi sparse, mi dà qua, la pioggia inizia dalle 10 di notte, dalle 22, sabato, domani è brutto, però sabato, insomma, qualche cosa già si può fare. Ma non è piacevole, quando ci sono le nubi non è piacevole uscire, è bello quando c'è il sole. Vabbè, ma noi quando ti copri eccetera, poi se piove te la prendi tanto, quando esci in bici ti capita anche di caderci nelle pozzanghere, la mattina mi sono occupato a beffa, però vabbè, cosa che capita, bisogna accontentarsi, no, se sei più. Ma tu cosa c'hai, butta bike? Sì, ne ho due. Una normale e una elettrica da cross sempre, però di cui vado, qualcuno direbbe, qualche anziano avrebbe dato un cattivo sui Ubuntu, in effetti a fare salite sassose, sterrato un po' brutto, dai, un po' pericolo sempre di cadere, ma insomma mi è capitato solo due volte per adesso di strappare. Speriamo bene. Sport, i rischi ci sono, se no non fai mai niente. Però c'è anche l'adrenalina, quando fai certe cose ti piace. E io il mio sport che è la pesca, avrei dovuto andarci, ma con queste giornate così, già fatto questo brutto tempo, non so se avete sentito quel tuono alle 4 di mattina, mi ha fatto vibrare la casa, non ho più dormito, perché perché stavo pensando che vedesse di quella grandine grossa facesse danno. C'era la macchina giù e trovavamo noi, speriamo che non mi poteva buttare la macchina, perché a Porto Torres anche ha fatto un bel di danno. A Porto Torres ha rotto anche parabrezza, fatto delle botte nelle macchine. Dice che cazzo era grossa quanto una pallina da tennis. Era bella grossa, era, hai fatto a vedere. C'era un amico mio con il furgone lì che stava consegnando pacchi. Dice che ha visto le palline e si è assurdato. Se. Beh, ti arriva a campo una cosa del genere, guai. Non è che sia la zitta. Se ti arriva in testa ti frantù. Infatti sì, certo, una cosa del genere, boh, andiamo e andiamo. Guarda, tanti anni fa questo amico mio che era emigrato in Germania mi ha raccontato che una volta stavano ritornando, che Germania spesso fa di questa grandine così grossa, stavano tornando e ci aveva la macchina nuova, l'aveva appena comprata, almeno una settimana ce l'aveva. Ha cominciato a fare questa grandine quando lui era vicino a una galleria e non è uscito dalla galleria, si è fermato per paura di sfasciarsi la macchina. Certo. Attimo, va, ha fatto come ha fatto. Certo, macchina nuova, non voleva lasciare bombardarla. E poi una sedica che costa anche un bel soldo. Certo. Andiamo e andiamo. Ciao Frank, riprenditela. Sì, in effetti. E il... cosa volevo dire? Boh, non mi ammetto più. Noia, ci siamo messi bene. Cosa? Sì, dunque, sabato allora si può uscire. L'importante è non uscire alle 10. Domani è brutto. Se continua così mi sa che ci conviene... che mi conviene comprarmi una tettoia di quelle tipo gazebo, no? Da piantare per terra, sempre che il vento poi non me la porti via, perché io ho sempre la macchina all'aperto adesso, prima c'era il garage grande, ma adesso sono in campagna, nel garage non ne ho, se non mi faccio una tettoia andiamo male, perché oramai questa grandine mi sa che con questo cambiamento di clima tra poco lo vedremo spesso. Ma la tettoia non basta, perché se fa di lato, poi di lato te la prende lo stesso la macchina, non ti credi che te la serve, non ti senti salvare la cappotta, ma di lato te la rovina, ti spacca il vetro, tutto il gatto, e ne senti specie che a prodotto già non ti parabrezza, mica sono grossi parabrezza. E quando ti arriva da quell'altezza, a grosso fino che sia, te lo rompe, perché già lo sai, è abbastanza solino, a punta, sul vetro, è micidiale. E vabbè, usavo che ti dica, d'altronde non è che si può prevedere tutto, oramai siamo in queste condizioni, tanto se non è grandine è il vento che per capotare qualcosa, qualche albero. Stamattina ne ho dovuto scavalcare un bel po' di alberi, cioè alla fine tra il platamona ci ha fatto strage. Ma io ti consiglierei di metterci una rete attorno al limite, di modo che riesca a bloccarla, capito? Una rete attorno, una rete abbastanza, una rete spessa, tutta quanta attorno, anche di quella che vendono per roba agricola, tipo quei teluni agricoli e cose, legato bene, tutto attorno e si andava. Sì, così decolla, tu non hai idea di che vento c'è qua. Ieri, quando era quella tempesta che ha distrutto un sacco di roba alghero, ma c'era un vetro, non potevi uscire fuori, era... c'era l'altra tettoia dove c'è l'officina, che insomma qualche problema l'ha avuto, ha tutto retto perché è fatto tutto con tubi in ferro, però il vento era forte, forte, forte, forte, forte. Quindi è così, tanto come si dice, se non sono lampi sono fulmini. Quello, guarda, il fulmine è l'unica cosa che mi preoccupa, poi l'altro, pazienza, non è che può prevedere tutto. Riprendito. Una lamiera, quando ci metti la macchina dentro, non anda nessun lungo, quindi non ce l'ha la forza di tirarla fuori. Ma magari che ho un tornado. Sì, ha sollevato tetti e cose, si porta via tutto. Quando arrivano queste raffiche di vento, anche non l'ha portato, ho visto ci sono solo i vidriati lì, c'erano degli alberi tutti quanti in terra. L'hanno tagliati adesso, perché sicuramente erano in tiro, l'hanno tagliati a pezzi, ma sono, vedo che sono in terra ancora. Vuol dire che erano deboli, però una casetta in lamiera e coso, con la macchina dentro non te la sposta, se pesa una macchina mia eppure non te la sposta dentro. Beh, tu dici quello è tipo quella cantiere là, però non so poi neanche dove metterla. La tettoia è più facile, tipo vengono una brick con legno, poi su ci metti le onduline, le attacchi bene con quelle viti espanse, se a posto quei rondelloni grandi, triangolari, e se a cavallo. Non so, che costa anche carucci, ho visto. Ma manca da compri da costruire. Se quelle 300-400 euro ce li metti. Poi ci devi fare la fondazione, almeno un pochino che vanno messi a terra, sennò te la capotano a pezzi, non è che sono fissata bene a terra. Almeno fino alla terra cosa ci puoi mettere, più che peso non puoi mettere. Potresti mettere sì un metro di tipo quelle elettriche, no? Poi sono per fare la massa a terra, a colpi di mazza, sui lati, legarla lì. E poi cementare tutto, fare una colonna in cemento alta magari mezzo metro. E il sistema già c'è fatto, il tempo ci vuole. Ciao Fra, intanto esci con un rumore tipo un'alternata ma forte però. Sì, perché devo mettere il tono sull'apparato, non su questo, è l'altro che ha acceso la scansione. Quindi pizzica qualche cosa digitale, è quello che si sente, mi sono dimenticato di metterci il tono. Vabbè, sì, evidentemente c'è il forte questo affare, un microfonino, quelli neri, adesso non mi ricordo neanche il nome, a condensatore dovrebbe essere, non pensavo che fosse così potente. No, anche a forte. Cosa ti stavo dicendo? Noi l'avevamo fatta un paio di anni fa in campagna del partito di mia moglie e abbiamo fatto il basamento tutto in cemento e l'abbiamo proprio affogata nel cemento. È venuta veramente bellina, siccome lui da casa non la poteva fare lì, quindi ha dovuto farsi una casa così, bella grande, ci ha fatto tutto quanto, ci ha messo tutto basamente in cemento, ha messo le mattonelle, tutto quanto, solo che fuori è una miera, là. E la usava per metterci gli attrezzi, queste cose qua. Poi ha fatto una casa un po' nascosta, ha fatto le fondamenta, la casa era proprio risultata sottoterra, là, quasi. Lo so, ma qua già fare una tettoia è una rottura di palle, perché primavera è fatta qua, c'è sempre l'elicottero in giro, adesso ci sono anche i droni, quindi cioè, ogni cosa va fatta sempre autorizzata, eccetera, quindi tieni basso la gana. A proposito di droni, l'altro giorno ero con il cane, c'era questo uomo con un drone, ma era bravissimo, andava lontano, si arriva molto in alto e mi sono incantato a guardarlo. A un certo punto ne è uscito uno, c'era un'abitazione, l'ha preso tutta a parolacce, gli ha detto di andarsene via da lì, se lo richiamo per carabinieri. A parte che non stava, non era puntato sulle case, era tutta dall'altra parte il drone, no? Poi logicamente quando lo faceva arrivare, tornare indietro, è normale per farlo atterrare che arrivava vicino alla casa, però non è che stava, deve essere qualcosa da temere quello lì. Sì, guarda, c'è gente, a parte che è ignorante, poi qua, attaccarsi alla nuova parola è anche la pena, ti conviene prendere tutto, mandarlo in quel paese e andartene, perché sono, dice, gente proprio che non capisce una mazza. Ma comunque lasciamo perdere. Anch'io ce l'ho, ma il mio non va molto in alto, deve essere bloccato, va a 100, dunque erano 140 metri credo che vada, perché si blocca automaticamente, rimane a quell'altezza e non va oltre. Ah, ecco, allora quello è intelligente. Quando c'avevo l'elicottero, un giorno sono andato al quadrato, era tutto libero di mattina, avevo un elicottero abbastanza grande e mi sono messo a farlo volare lì. E di quelli a radiofrequenza, però l'avevo comprato dai cinesi, era il più grande che c'era. L'ho fatto salire molto in alto, presente quei lampioni che ci sono alti, e mi superavano e tutti quanti stavano guardando e cose. Poi deve essere che è mancata la radiofrequenza e si fa da picco, si è fatto i 1000 pezzi, appena comprato la cosa pretendi? Certo sarà il 27 e mi farà subito. No, il mio è a doppia frequenza, credo sia 5 giga e 2 giga e mezzo. Ma oramai, anche io ce l'ho avuto l'elicottero, uno non sono mai riuscito a farlo volare, era troppo complicato, però di quelli grandi, era proprio grande, che te posso dire, non dico che era mezzo metro, ma almeno 30 centimetri lo era. 40, ma poi faceva un casino quando avviava il motore, è terribile, l'ho dovuto dare perché non c'era speranza di farlo volare questo affare, se saltava non sapevi proprio se andava a destra o a sinistra. Il drone è uno scherzo, premi solo un pulsante, per il pulsante lui si alza, poi il pulsante lui se ne ritorna indietro buono proprio nel punto preciso, perché c'ha il GPS memorizza poi il punto da cui parte, anche se si scarica la batteria un pochino se ne torna indietro, insomma c'è anche la funzione che ti segue, che però non lo so se sia legale quella, perché la legge dice che lo devi sempre controllare. Adesso ci sono quelli anche che comandi con le mani, senza bisogno di fare il comando, dici alzati o lui si alza. Adesso oramai penso gli elicotteri, quelli là, sono troppo difficili da guidare, mentre un drone invece fa tutto da solo, tu ti devi occupare solo di scattare foto, fare riprese e basta. Patente per guidarlo. Bisogna stare attenti perché adesso ci vuole il patentino pure. No, non per tutti. Vabbè, quelli piccolini e piccolini no, ma quelli grandi sì. Quelli che superano una certa altezza. Sono il patentino. Ma io sono un gruppo di una cuccia. Lo so, sono io qui a casa. Ci vuole il patentino e poi due tipi di patente. Uno che poi qualcuno si è lasciato portare volare solamente nelle campagne, eccetera. Se poi devi far volare in città, ci vuole un'altra patente ancora, diversa. Ahia, ciao Giù. Cosa c'è? Il drone ti sei preso? Non io direttamente, ma c'è la mia figlia per il lavoro. Ci vuole una patente. Se la patente costa 800 euro per prendere la patente. E puoi volare sino a 150 metri. Se poi vuoi andare ancora più in alto, ci vuole un'altra patente, altri 800 euro. E puoi anche volare in città, perché non è così semplice. E se uno è sprovvisto, se lo trovano, sono dolori ma amari. E in città lo conviene, non so se hai sentito cosa ho detto, l'altro giorno ero col cane, stavo passeggiando nella strada che da casa portava verso il monte, lì con la strada nuova, e c'era un signore che stava facendo volare questo drone, era bravissimo, lo faceva andare un bel lontano, e poi lui e si è messo proprio a fianco a un gruppo di case che c'era lì, no? E a un certo punto è uscito questo signore di andarsene via, l'ha preso a parolacce, gli ha detto tutti i colori, e questo gli ha detto scusa, vieni qua a dirmi, non stare a facciata la festa, vieni qua, io non sto facendo niente di male, mi sto solo divertendo, e cosa c'è, qualche cosa da temere, che ha paura che vedano qualche cosa che fai di illecito. Ma ripeto, se lui non ha la patente non lo può fare neanche per sforzo, per divertirsi, non si può divertire, perché il drone oggi è diventato una cosa che deve essere autorizzata per farlo volare, perché se no, a meno che non è un giocattolo, se poi è un giocattolino, questo non lo so, è un altro discorso, ma se è un drone professionale come quello che c'è qua, stai tranquillo che ci vuole la patente, e non basta, ci vuole anche l'autorizzazione per volare, oltre all'assicurazione, 250 euro di assicurazione, oltretutto. Scusa Giulio, ti devo contraddire perché occupandomi anche di droni bisogna distinguere le categorie. Innanzitutto il termine professionale, per professionale si intendono dei droni tipo quelli che usano i vigili del fuoco, che pesano oltre i 300 grammi e quindi vanno anche a 2-3 kg, ma ti portano su roba veramente grossa, e comunque il privato non se li può permettere, quindi il discorso è già chiuso all'inizio. Poi il rispetto è legato solo alle norme ENAC che praticamente impongono dei limiti di altezza, limiti di territorio, perché ci sono le cosiddette zone no-fly, quindi di volo vietato, tipo vicino a installazioni particolari, stazioni radio e così via. Non puoi entrare, diciamo, nell'area, diciamo, ad altezza bassa, in zone di proprietà privata, dove puoi proprio disturbare la privacy e cose del genere, però ti assicuro che c'è gente che ha ad esempio il DJ, io ti posso citare anche i modelli, il Phantom, eccetera, che sono apparecchi che vanno intorno alle 1200-1600 euro, che possono volare anche a 4000 metri per intenderci, però la loro limitazione ENAC, se non ricordo male, è intorno ai 50 metri appena, che non è poco comunque per chi vuole fare una passeggiata, vuole fare delle foto. Però patente lì non ce ne vuole, perché è definito per legge per uso ludico, cioè per tuo divertimento, non per lavoro. Per lavoro ci vogliono tutte le patenti, che hai tutto, però per giocare basta guardare su internet, ci sono tutte le normative, eccetera, quindi non c'è un divieto così impellente come molti vogliono far credere per farti andare a scuola, spendere dei soldi che non servono a niente, capito? Io faccio foto, rilievi, eccetera, ma non ci vuole niente. Io quello ho detto che per il lavoro, come professione, e siamo qui a casa, 1700 euro è costato questo drone. Per cui, e tu la patente, 800 euro, non ce l'ho io la patente, ma c'è la mia figlia che lo usa per la sua professione, lo usa. E ripeto, lei in questo momento lei lo può formulare solo fino all'altezza di 150 metri. Perché? Perché ha la patente per quell'altezza lì. Però adesso si prende anche l'altra patente e potrà andare anche ai 500 metri, per dire, no? Appunto, sono diverse categorie, come la categoria della macchina, c'è la patente B, la patente C e così via, così anche per il drone, specificato così alla buona, no? Ecco cosa intendo, e lo usa per lavorare, e certo non lo usa per giocare, no? 50 metri, ci sono palazze che sono altri 50 metri, a cosa serve? Non serve a niente, quello sono giocattoli o da un tratto. No, non è così, scusa. Allora, guarda, l'altezza è come limite ENAC, quindi l'ENAC è l'Ente Nazionale Assistenza al Volo, non l'ENAC, scusa, l'ENAF. e quindi è quella che dà le disposizioni in base all'altezza, alle quote da mantenere. Oltre a quelle zone, diciamo, quell'altezza viene anche, dovresti essere anche visto dalle torri di controllo con i radar attivi, quindi insomma di lì è veramente molto pericoloso, perché se tu pensi dove sono io, qua c'è la rotta ad esempio dell'elicottero del 118 che parte da Fertilia, e quello ti assicuro che quando va a residuo eccetera eccetera vola a quota già abbastanza bassa, non è 50 metri, però insomma è nell'ambito già dei 150, è molto pericoloso a prescindere dal tipo di drone, perché se colpisci il rotore anche con un drone giocattolo è abbastanza seria la cosa, e quindi ci sono delle limitazioni proprio in altezza. Poi la seconda limitazione importantissima dei droni è quella che quelli, come dici tu, giocattolo, che poi assolutamente non sono dei giocattoli, il giocattolo dei droni sono quelli che vendono i cinesi, per intenderci, e neanche, perché poi sono tutti fatti in Cina, anche quelli professionali, così detti. È il fatto che tu li devi controllare a vista, tu sai benissimo che la vista massimo arriva a 100 metri, perché già a 100 metri ti assicuro che diventa una cosa piccolissima, e oltre non puoi andare, quindi come distanza a cui lo puoi mandare è molto limitata. Quella che che ti riferisci tu è il controllo FVP, diciamo, praticamente tramite video, quindi dal drone parte un video, tu lo ricevi sul telecomando, su altro dispositivo, e da lì guidi come un drone, diciamo, militare, più o meno su quella falsa riga. Quindi quello è tutto un altro discorso, che lo fanno tutti comunque, non è che sia niente di eccezionale, oramai con la tecnologia c'è. Capita. Riprendi Gianni, tu ce l'hai già il drone, credo, se non sbaglio, così? No, negativo, io ho avuto diversi elicotteri, ma poi volevo prendere quella motore, li ho avuti tutti elettrici, la verità. Poi ho cambiato idea, perché diciamo che un bel po' li ho rotti facendo, comprando sempre pezzi, questo e quell'altro, alla fine mi sono rotto le scatole, bastava toccare un ramoscello di un albero, lo faceva capottare, cadeva in terra malamente, proprio si sfasciava tutto, come sì, ne ho avuto diversi, ne ho avuti piccoli, quando lo facevo in casa, a volte mi avvicinavo troppo ai mobili, se toccavo i mobili mia moglie si incazzava, allora lo facevo fuori, siamo andati anche con Luca del Monte, ce l'aveva anche lui, qualche volta a farli volare, siamo andati a Monserrato, lì dove c'è il parco. Scusa un attimo, no, questo qui è, ripeto, un drone come si deve, non è una cosa da poco, questo qui, intanto tutto quello che tu riesci a vedere in aria, cioè che il drone riesce a vedere in aria, ce l'hai sul computer, ce l'hai sul tablet oppure sullo smartphone, perché sulla cosa, come si chiama, quel telecomando, quella pannellina dove ci sono i comandi, si applica il tablet e tutto quello che tu stai facendo, stai sorvolando, lo vedi direttamente nel tablet, e se lo registra anche, è chiaro? Se no non gli servirebbe. Ripeto, mia figlia lo usa per il lavoro, quando va a fare dei rilievi eccetera, usa questo qua, certo non sempre, ma in certi momenti ha bisogno di questo, di questa apparecchiatura, proprio per vedere tutto, non è che si può fare chilometri a piedi per poi appunto invece lì c'era tutto registrato, c'era e vede tutto. Mi sono spiegato io? Sì, mi sono spiegato, cioè ti sei spiegato Giulio, però devi capire che i droni, quelli che definisci professionali, non sono certo quelli né da 1.500 né da 2.000 euro. Un drone professionale si intende un drone che può arrivare a cifre anche di 20.000 euro. anche perché a bordo c'ha delle camere in 4K ad altissima definizione, qualcuno anche arriva a 16K, che per fare proprio riprese non è detto dall'alto, perché poi l'altezza in quasi tutti i droni è relativa, per fare riprese con altissima definizione, perché la caratteristica di quelli professionali è che tu devi fare il minimo per pilotarlo, quindi fa tutto da solo, è tutto automatismi. Quello che interessa per i professionisti è solo fare foto, è come esce il video e come esce la foto, tutto l'altro è relativo. Il volo oramai, io ne ho uno qua che costa, adesso non ricordo, 200 euro appena, c'ha tutte quelle funzioni, può atterrare da solo, partire da solo, c'ha il GPS a bordo, ti dà dove, ti segue, quando tu cammini si sposta, se ti fermi lui si ferma. C'è una portata di un chilometro, e quello è economico, però c'ha tutte quelle funzionalità, solo che quando fai video li fai solo in alta definizione e non in 4K, quella è la differenza, anche perché in 4K poi ci vuole anche il televisore, il computer, cioè è una cosa un po' particolare. Però i professionali sono apparecchi che costano tantissimo, tanto è vero che hanno a portata di 3-4 braccia, ne hanno 5-6, ed è roba molto grande anche, quando vola quello veramente è un mostro che si alza il volo, quindi così, però io ti posso assicurare che ci sono, ripeto, il mio collega ne ha uno che si mette in tasca, si chiama il DJ Fan, DJ Mavic, che attualmente da Media World credo senza accessori viene intorno ai 900 euro, c'ha una capacità di volo di 5 km e un'altezza dalle prove intorno ai 4000 metri. È chiaro che se vai a 4000 metri ti arrestano se ti trovano, però ci può andare tranquillamente. Autonomia di volo di circa 20 minuti, quelli professionali possono stare in volo anche 45, quindi sono delle differenze proprio tecniche, ma poi tutti quanti fanno foto. Questo qua che c'è il mio collega ad esempio fa foto in 4K, che è una definizione altissima, quindi fidati che quando decolla il mio, che c'è una piccola telecamera, io vedo da qua il ponte di Itiri in una maniera micidiale, proprio una foto aerea. Tieni presente che in questi ultimi 5 anni hanno fatto miracoli, la tecnologia. Un drone di 5 anni fa non può essere paragonato a un drone che c'è adesso, perché ho detto poco fa che li puoi comandare anche senza telecomando, anche con le braccia, le puoi dire alzati, abbassati, lui lo capisce perché c'ha la memorizzazione dei gesti del corpo umano, quindi c'ha dentro proprio un'intelligenza artificiale, e costano 1000-1500 euro, quindi niente di particolare, però fa delle bellissime riprese. Tutto lì. Avanti Tore, eri tu che ce l'avevi allora il drone, confermi. Stai parlando con me o Gioffre, stai chiedendo a me? No, a Tore stavo dicendo, perché non so se anche lui ce l'aveva il drone. Tore, riprendi. A me stavi dicendo. Sì, tu eri che ce l'avevi anche tu il drone. Ce l'ho. Ma quello che ho io è un tipo professionale, però non lo posso usare. Che avevo la patente e quindi ce l'ho messo da parte, l'ho conservato. Ma è uno scatolone che ho io grande. Come peso, quanto supera? Perché? Quanto supera? Parecchio in alto sale. Presente ce l'hai quello dei pompieri. Ma quelli costano una fortuna, cioè c'è una macchina nuova. Io c'ho quasi una cosa del genere, cioè. Costa un po' garido, però ce l'ho, perché questo io me l'hanno dato in cosa, me l'hanno dato e l'ho pagato pochissimo. Solo che non lo posso usare. Se c'ha quei pesi, sì, se è così pesante, perché se cade a terra poi è come che cadrà un aereo. quelli, tra l'altro, sono grandi, ma quelli piccoli, questo ad esempio nel DJ Mavis, tu pensa che c'ha le ali che si piegano, ma è un miracolo di tecnologia, c'ha altezze considerevoli, 4.000 metri l'hanno mandato tranquillamente, 5 km di portata in orizzontale, e tutto col video, quindi fuori pilotaggio tramite il vero pilotaggio remoto, cosa che non è consentita quella, perché la legge dice che deve essere sempre a vista su quelli autorizzati che non hanno patente. Però devi vedere, le foto fanno da paura, è una cosa che bisogna vederla per capire di cosa stiamo parlando, ecco. Tutto lì. Riprendi Gianni? Gianfra, io avevo proprio la passione per gli elicotteri, avevo una busta dei carabinieri che avevo fatto arrivare da internet, un bel grande, bello. Tutti si fermavano a guardarlo quando lo usavo, però c'aveva una cosa, c'aveva tutta la carrozzeria, diciamo che non era un materiale tipo plastificato, ma di quella plastica che tu quando la tocchi si ammacca, ce l'ha presente. Era fatta apposta perché se tu per dire rompevi il petto lo sostituivi tranquillamente con poche lire, capito? Però era molto bello, a me piace proprio il modellino, io devo dire la verità, a me il drone non mi piace come estetica, a me piace proprio il modellino, vederlo volare, l'aereo, l'elicottero, io andavo a vedere anche le gare, a me facevano Alghero, andando verso l'aeroporto, lì c'è una pista, andavo a vedere le gare, poi le facevano anche lì allo stadio della Torres, in piazza dei Segni, li facevano volare una volta a casa questo, ma eri grandi, enormi, c'era un aereo, un Jumbo che era turbo, aveva motore turbo, cavolo, che quando accelerava i pantaloni di chi lo stava pilotando cazzo, sventolavano dalla potenza che aveva, però lì ha detto che non lo poteva far volare perché ci vuole una pista vera per farlo volare quello lì, perché ha bisogno di molto slancio. Sì, già, quelli infatti hanno quel problema, capito? C'hanno il problema che deve decollare, deve atterrare e non sono stabili poi. Pensa che il DJ Mavic ha i sensori d'urto, l'abbiamo provato per farlo sbattere volutamente, no? Ce li ha davanti solo. Se c'è un albero, se si avvicina troppo a distanza di 2-3 metri, lui lo riconosce e immediatamente fa retromarcia. Quindi sono tutti zeppi di sensori inimmaginabili, detto così sembra una cazzata, ma se poi lo vedi, guarda, ti posso dire anche quanto costa, su Amazon va dai 1072 euro ai 938, quindi ce ne sono anche di seconda mano, credo, però è il Mavic Pro, quindi è uno strumento micidiale, penso che tu ti intendi di fotografia, quindi quando parliamo di telecamera a bordo brandizzabile con 4K, con tutti i sensori di esposizione come tu desideri eccetera, è un oggetto piccolissimo e formidabile, riesce a raggiungere credo una velocità di 60 km all'ora, quindi in versione quando metti la modalità sport, quindi no, insomma è un proiettilino e ti permette di fare quelle cose che proprio l'elicottero non ti permette, perché se tu li vedi fermo, ma anche il mio, anche quando c'è il vento, è proprio rimane fermo, stabile in volo controllato è micidiale, cioè l'elicottero difficilmente raggiunge una precisione del genere. No, rimane fermo anche l'elicottero, comunque basta saperlo pilotare e dargli la giusta, i giusti comandi, riesci a tenerlo fermo nell'aria anche l'elicottero, però quello lì, più c'è la telecamera, la macchina fotografica, è come se me ne intendo, io fotografia la faccio da quando sono ragazzino, c'è anche una macchina professionale, una Canon, adesso che sto usando molto poco perché un po' la passione mi è passata, prima il fiorellino vedevo, il fiorellino ingrandivo, facevo macro fotografia, facevo un po' di tutto. Sì, è vero, quello lì c'ha in più, ma da dove la regoli la macchina? È automatica o devi regolarla al telecomando? C'è tutto, se ti sto dicendo che sono dei mostri volanti, tutto, di norma è automatica, se non ti piacciono i settaggi poi tramite telecomando puoi fare tutto quello che vuoi perché ti manda a doppia immagine, capito? Se ne manda una sul telecomando che può avere uno smartphone oppure un monitor a rocco a seconda dell'utilizzo che devi fare. Sono tutti a doppia frequenza, c'hanno i 5 giga e poi c'hanno i 2 giga e 5. Io l'ho visto anche a una certa distanza, ma da paura. Tu sicuramente avrai visto dei video 4K, quindi ti puoi perfettamente rendere conto di cosa stiamo parlando. Anche se si solleva in volo, che ne so, a 1000 metri, giù i particolari li distingue come? Insomma, una cosa micidiale. C'ha tutte le regolazioni, c'ha proprio una telemetria sia d'altezza, che altezza è, sia dove si trova, come posizione, lo stato della batteria, insomma, tutto, capito, proprio chi più ne ha più ne metta. È un mostro, è un mostro. Io l'ho visto a Pantalona, uno ce l'aveva, gliel'ho fotografato mentre stava volando, con lui due gliel'ho fotografato e ce lo ricordo adesso mentre vola e c'è lo sfondo del mare, lo stavo facendo volare anche abbastanza in alto, era nella spiaggia e lo stavo facendo volare quando non c'è gente, naturalmente ti parlo di poco tempo fa. Siamo andati a farci un giro col cane, c'avevo anche la macchina fotografica, io solitamente la portavo sempre appresa, adesso un po' meno, è passata un po', non lo so perché, perché c'è anche il cellulare che fa bene le fotografie, e portarti questo ingombro addosso, io ho la macchina che ha uno zoom 70-210, ti puoi immaginare, che tipo di macchina fotografica c'ho, la EOS della Canon, la EOS 60. Scusate, che io devo chiudere. Sì, ho già fatto, dunque questo è grande, più o meno 60x60, io adesso non ti so spiegare le parti tecniche eccetera eccetera, perché a me, tanto a me personalmente non mi interessa proprio. Per il lavoro e questo qui è grande, è circa 60x60 più o meno di grandezza e ti ho detto che sale sino a 150 metri perché è lei che lo può mandare sino a 150 metri e non oltre con quella patente che ha e paga 250 euro di assicurazione, paga poi tutto quello che registra, te l'ho detto già da poc'anzi, registra sul tablet o sullo smartphone. Cioè uguale per dire sul tablet è più grande, chiaramente poi se lo sviluppa non so come, sicuramente in la televisione, che ne so, io non mi sono interessato, sto solamente riferendo come la situazione, no? Per cui utilizzando le città ha bisogno di un'altra patente o meglio di un'altra autorizzazione, non so cosa sia di preciso, questo è quello che mi ha detto a me mia figlia, per cui non te lo so nemmeno spiegare di preciso che cosa vuol dire, che cosa significa. Va bene, dai, adesso ho parlato anch'io, ma devo scendere giù, dai, perché ho il tablet acceso giù, però devo spegnere, che stavo guardando una partita del campionato spagnolo. Ci sentiamo, grazie per le quattro chiacchiere, dai, scusate se mi sono intromesso così, ci sentiamo la prossima volta. Riprendi pure Gianfranco, ti saluto a te, a Tore e a Gianni, riprendi Gianfranco. Sì, ok Giulio, ben ascoltato, buona serata. Ti volevo segnalare, ma forse è perché, magari non so se è cambiato qualcosa, che il segnale è più basso da quello che mi ricordavo, è un pochino più basso di come me lo ricordavo e quindi risulta un pochino più, infatti mi piaceva lo squelch, è S9 comunque, però se lo tengo un po' alto sempre anche per le scariche che ogni tanto ci sono, ma rispetto a quello che ricordavo eri molto più alto. Ok, buona serata, comunque alle prossime, riprendi Gianni. Sì, scusa Gianni, sì, no, sto uscendo con pochissimi watt, dunque sì, e poi l'antenna è bassa, sicuramente mi ha sentito con l'altra antenna e magari è per quello che il segnale, questa è un'antenna autocostruita, è un dipolo, cioè della verità, autocostruito, messo in terrazzo, bassissimo, con un metro e venti di palo e basta, da lì in su tutta la testa della canapessa, niente di più. Va bene, ti saluto di nuovo, ciao Gianfranco, ciao Gianni e ciao Tore, saluto a tutti e grazie, scusate l'interruzione, avanti Gianni. Allora, ciao Giulio, buona continuazione di serata, avanti Tore. Ok, ciao Giulio, ci sentiamo le prossime, ok, ciao. Chiama Gio Maria, deve essere entrato, sei libero. Gio Maria deve essere parlando con Graziano nel PMR. Ah, ok, dai. Ce l'è fuggito, dai, era mi scusa. Va bene, anda bene. E allora Gianfranco, ti diverti anche con Dome, dai. No, per essere onesto, adesso è qua a fianco, però non è decollato sia per il cattivo tempo di tutti questi giorni, sia perché preferisco uscire fuori e divertirmi un po', capito? Quindi è un po' lì, c'è ma è un po' lì. Quello di prima, le caratteristiche fotografiche, se ti interessano, c'è una fotocamera di questa marca qua, ZenMouse, da 12 megapixel, registra video in 4K da 30 fotogrammi per secondo a 60, oppure da in HD 1080 a 60 frame per secondo. E il coso cos'era? Cosa c'era? C'è anche, insomma, c'ha bitrate rate molto alti, 60 megapixel al secondo, tutta ovviamente roba che se vuoi vedere se la memorizza lui nella pancia, nella SD, no? Per darti un'idea, io ho una microcamera 4K e non la posso usare, faccio i filmati in 4K, li metto nel computer e me lo crasha, diventa tutto verde e si blocca perché la scheda video me la carica. C'ho il televisore in 4K, posso usare solo quando faccio quei video, solo un cavo super schermato, molto corto, perché sennò non ce la fa proprio ad avere un segnale buono, perché il 4K è terribile, richiede risorse, proprio processore a Goku. Quindi sì, è molto bello da vedere, però cacchio è impegnativo. Ma i motori sono sempre elettrici, non ne hanno fatto ancora con motori elettrici, con motori a benzina, a scoppio, dai, diciamo. No, quelli a scoppio probabilmente sono droni militari con motorini particolari. Per avere solo esclusivamente più autonomia, ma oramai il motore a scoppio è praticamente su questo settore non è utilizzato, sia per una questione di peso, sia perché oramai hanno raggiunto un rendimento con queste batterie da paura. Questo che dicevo prima, il DJ Mavic Pro ad esempio lo danno per 30 minuti di autonomia. C'è una caratteristica, praticamente le ali, cioè se così si posso chiamare le braccia più che altro, si ripiegano, c'è un sacchetto, te lo metti nel sacchetto e te lo puoi anche mettere in tasca, per dire. Ma è una cosa veramente notevole, tutto sommato per quello che fa, anche per la telecamera che c'è a bordo, non per i sensori eccetera, quando parliamo di 900-1000 euro non è una grande cifra. a Forum avevo sentito una storia di questo qua che nel palazzo che c'è Valdrone, c'era questa tipa che aveva la terrazza e andava a prendersi il sole in topless e cose, e lui gli faceva andare il drone sopra, gli faceva i filmati, no? E praticamente questa qua l'ha denunciato e voleva risarcimento di danni per la privacy, eccetera, la questione della privacy, eccetera. Lui si guarda e mi ha detto, ma io facevo girare il drone così, non è, se poi ha filmato anche a lì, io non ho nessuna colpa, mica io potevo sapere dal terzo piano cosa stava facendo lì su nella terrazza. È successo perché lo stavo facendo volare e effettivamente è lì che non si deve mettere in topless sul terrazzo, perché dalla parte di sopra la possono sempre vedere, non è che sia isolata del tutto. Beh, di lì il discorso è un po' complicato, perché praticamente a me nessuno mi può vietare di uscire nudo, per dire, non penso che mi guardi nessuno, tra virgolette, però uscire nudo in campagna e farmi una passeggiata nuda, sono nella mia proprietà, eccetera. Al limite chi può vedere si può mettere a ridere, ecco. Questo vale per un uomo, per una donna, eccetera. Però non è configurabile come reato, perché non è atti in luogo pubblico, perché è una proprietà privata. E se uno ti vede con gli occhi, eccetera, e se casualmente poi sta facendo le riprese e ti riprende, vai vestito, semplicemente. Il problema è quando la cosa è intenzionale, è ancora più grave quando questa intenzione si trasforma nel metterlo, che ne so, tipo online, come fanno certi furbacchioni che mettono il video su YouTube, ad esempio, e poi li arrestano puntualmente. Quindi la legge dice della privacy anche che tutti i dati, in questo caso dati personali, video personali, eccetera, sono dati anche agli altri, a prescindere dalle finalità, costituiscono reato praticamente, quindi violazione della privacy. Mentre invece sono fatti casuali, perché in quel momento tu prendi ad esempio l'elicottero che passa per fare rilievi del catasto, eccetera, quello c'ha una lente che te ne trovi la finestra, ti vede anche i mobili che c'hai, capito? Però quello sta volando in alto, vede tante cose, se tra le cose vede a te che sei nudo, cioè non ne hanno colpa, capito? Quindi tu figurati i droni militari cosa vedi? Cosa vedono da quell'altezza? E volano in alto, e quelli sono a motore, sono a elica, con motore a scorpo, sono grandi, sono 4 metri di fusto e non so quanti metri di apertura all'aria. Quindi sono discorsi un po' così, capito? C'è molta gente che ti denuncia solo per avere soldi, stai attento, a prescindere. Scusate un attimo che sono al cellulare. Ok, riprendi Tore. Io quello che ho io è un bel po' grandetto, c'ha le eliche che sono di 15 centimetri l'uno, un'elica, pensa un po' col motore quanto è grande il motore. Ma come mai non te lo sei venduto, se non lo puoi usare, se è così pesante? Lo puoi fare in soldi tranquillamente. E te ne compri uno moderno, che c'è già tutto, che vola da solo, non c'è neanche bisogno di guidarlo. No, perché sto aspettando questa persona che venga da fuori, mentre che se lo prende e se lo porta su a coso. Ma di Trubaisi, non me ne ammetto. La madre che viene a prendercelo e tutto quanto se lo porta via. E me lo baga, un po' che di là me lo baga, anche se no non è via. Io ero intenzionato di farmi la patente, ma no, ha detto la mano in voce. Ha già dei primi di chiedere di picciti, ma panda a cosa. Quello che ho io si usa la webcam, si usa con il coso, anche con la cosa, con il tablet si usa. sì, come tutti, tutti si possono usare col tablet, perché la, la trasmissione bifrequenza è sia 2.5 sia, sia 5, 5 giga, quindi è in wifi, quindi la, il problema è sta solo nella potenza, perché quelli professionali hanno proprio la dockstation cosiddetta, che ha potenza, ad esempio qua c'è anche il trasmettitore da 5 giga, che però va, va fino a 5 km tranquillamente, è una cosa piccola che da paura l'ho fatta arrivare dalla Cina con furore. E comunque il mio, l'ho misurato mentre parlavi dell'eliche, la elica nel senso proprio tutta, non metà elica, tutta la elica è 22 centimetri. Un attimo, se le metto insieme con due eliche io lunghe diventano 30 centimetri, diventano, pensa un po', 30x30, tu fai. No, c'ho il telecomando, se vedo il telecomando, c'è bugubigia, cazzo, è bello grosso, ecco che ha un bel sul telecomando. Cosa lo volevo abbinare a vedere per la macchina che ho io, la Ferrari, che c'è da un metro lunga. La volevo abbinare a quella, invece non va bene. Un attimo, devo chiedervi una cortesia, se sapete dove è il campo di Pruniceta voi? Quello è il campo lì di Pruniceta, devi salire su, su, devi salire. Parecchio su, mi pare che sia all'ultimo, all'ultimo palazzo che trovi, ne fai un 15 metri e devi girare a destra, devi girare, se non mi sbaglio. È un campo di calcio, siccome devo portare mio nipote domani. Vabbè, io adesso vi saluto, mi ha telefonato per sapere se dove era questo campo. Io non lo sapevo, sinceramente io a pallone vi giugo, quindi non ne so. Andare, io vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per il questo. Ciao a tutti. E ok, ciao Gianni, stammi bene. Vabbè, riprendi Fra. Ok, ciao Gianni, buona serata allora. Alle prossime, fate sentire. Sì, io ho misurato l'elica totale, diciamo, come si misura classicamente, quindi non solo metà, ma tutta la pala, ecco, completa. Ma quello che ho io è anche è bello grosso, è fatto bene, è proprio... Infatti, quando ho fatto vedere la ghiaccio, mi ha detto sì, sì, sì. Ha detto, tienimelo che come rientro me lo prendo, lo pago e me lo porto via su in paese, in alta montagna, così me lo adopero. E dice che lui lo usa per lavoro, lo usa. E quindi se c'ha il patentino, per lui va bene, anche se è grande. Poi resistono meglio al vento, sono... sono pesanti, sono anche un pochino più stabili. Poi dipende anche da che età è, perché gli ultimi che stanno uscendo, ovviamente la tecnologia non è che sta ferma, quella è molto veloce come tecnologia. Figurati che gli ultimi non c'hanno uno, ma c'hanno due GPS con diversi sistemi, GLONASS, il GPS classico, e chi ne ha più ne metta, anche il Galileo, che ce l'hanno sia sul mezzo sia sul telecomando anche. Insomma, tutta una cosa micidiale. Oh, anche questo c'ha il GPS di su, ce l'hai dentro, ce l'ha un affare piccolino, rimane, e più c'ha nel telecomando, ce l'ha anche, e più c'ha due sensori di cose di altezza, che quando arriva al coso gli dice a, e gli segna quanto è d'altezza, e più quando deve allontanarsi parecchio gli segna tutto, gli segna nel telecomando. Sì, guarda, le stesse cose ce l'ha anche il mio, anche se costa, ripeto, 200 euro ed è praticamente, non dico un giocattolo, però si avvicina molto a un giocattolo, perché ovviamente c'è anche, è un pochettino grandicello, non è grande grande, però grandicello quanto un Phantom, che è già una cosa molto più seria. Infatti prima di decollare devo aspettare che acquisisca sia il GPS sul drone vero e proprio, sia il GPS installato sul telecomando. E questo perché quando tu ti muovi lui sa sia la tua posizione dove sei, sia tu sai la sua posizione dove è lui. Quindi ripeto, in questi ultimi anni stanno facendo cose allucinanti. Gli ultimi, te l'ho detto, tu ti metti lì in piedi, le dici con le mani sali e lui sale, le dici avvicinati e lui si avvicina, le dici scattami una foto e lui ti scatta una foto. Sono dei robot volanti. Lo so. Vabbè, già, a me mi stanno chiamando. Devo salutare, ok, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao Fra. Ok, Tom, grazie per la chiacchierata, buona serata e alle prossime. Non c'è di che, va benissimo, ok, ciao. Ciao, ciao, buona serata.